Do il buongiorno a Mariangela Pittur, direttrice artistica di Miss Mahonda. Buongiorno e grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi. Allora, nuova stagione, o meglio, continua la stagione del Laboratorio di San Filippo Neri. Quando e come si inizia in questo 2023? Iniziamo il 20 di gennaio. Quest'anno apriamo dedicandoci all'acqua. Apriamo con la presentazione del libro nuovo di Mario Tozzi, che è appunto Mediterraneo Inaspettato, e quindi ci racconterà del Mare Nostrum. Ma in realtà abbiamo colto questa occasione per anticipare quello che sarà un po' il clou della stagione di quest'anno, che è Seeking Blue Gold, una mostra che fa un'installazione site specific per l'oratorio di Liusi e Jorge Horta, che farà parte di Art City e che parlerà appunto dell'acqua. Loro sono da sempre molto attenti a tutte le tematiche dei cambiamenti climatici, del green, della sostenibilità. A questo proposito, la mostra sarà anticipata da un incontro con il professor Segre e con Solibello, entrambi da tutta la vita interessati da questi argomenti. Per cui entriamo nella programmazione dedicandoci all'acqua. Dopodiché lasceremo spazio a quelli che sono i cicli tematici che da sempre ci accompagnano. Quindi avremo i cosiddetti libri di scena, perché tendiamo ad ospitare scrittori, autori che abbiano una qualche valenza scenica. Quest'anno sarà la volta di Serena Dandini, per fare un nome, sarà la volta per la prima volta di Domenico Iannacone, anche lui personaggio televisivo, sarà la volta di Alessandro Gori, ex Sgargabonzi, perché adesso ha cambiato pelle e ci verrà a raccontare come. Un altro ciclo tematico che ricorre quest'anno particolarmente nutrito è quello del prima della prima, quindi prima che gli spettacoli vadano in scena. Ci piace ricordare tra gli altri Stai Zitta, quindi il libro di Michela Murgia, che diventerà uno spettacolo, e avremo un primo reading a San Filippo Neri, così come Lucia Mascino, che affronta un testo molto delicato, molto importante, di Monica Dolan, attrice e autrice inglese, con la regia di Serena Sinigaglia. Anche lei ce ne verrà a dare una lettura. Ma in tutto questo avremo ad esempio anche Stefano Nosei con Comicanto, che rimette insieme tutti i pezzi della sua carriera tra il comico e il canto, appunto, e viene a darci un primo assaggio a San Filippo Neri. Come sempre, insomma, una programmazione ricchissima, e lo stiamo vedendo. Vedo che c'è anche un anniversario particolare dedicato alla musica italiana, a Mozart. Abbiamo colto l'occasione, perché c'è stata l'occasione di un'attrice straordinaria, Sonia Bergamasco, che viene a fare questo omaggio raccontando un Mozart segreto, che è quello scritto da Paolina Leopardi, sorella del Leopardi più noto. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo. Ricordo che l'ingresso è sempre gratuito, per precisa mission della Fondazione del Monte, che ci consente di aprire questo meraviglioso spazio e di offrire tutti questi appuntamenti particolari.